известные проблемы в мировых финансах. I'm beginning a conversation with you, with America. Jefferson 2, l'arte della svolta, di Stefano Pistolini. از شخصیت‌های قدوم انقلاب ایشون هم خدمات زیادی کرده در دلبستگی ایشان. Beh, diciamo che abbiamo a più riprese, in tante occasioni, assistito a dei procedimenti di normalizzazione. Oggi abbiamo assistito in fondo a un altro procedimento di normalizzazione, anche se più stravagante, almeno dal nostro punto di osservazione, di quelli che ci è capitato di seguire in altri casi. Tutto ciò ha coinciso con ciò che avete appena ascoltato in sottofondo, ovvero con il discorso della guida suprema iraniana, l'Ayatollah Ali Khamenei, che in un discorso all'Università di Teheran ha sottolineato la straordinaria partecipazione al voto dell'elettorato iraniano, segno quindi di una nazione che si sta rivelando matura, cresciuta, adulta, vogliosa di partecipazione e naturalmente di democrazia, ma al tempo stesso ha detto attenzione, stiamo molto calmi, qui c'è un esito, qua ci sono dei numeri, dei risultati. Mahmoud Ahmadinejad è stato eletto democraticamente dal popolo, le elezioni sono state trasparenti, libere, e tutto ciò che sta accadendo in piazza negli ultimi 3 o 4 giorni è qualcosa di molto pericoloso, perché il popolo ha scelto chi voleva e bisogna porre fine a questi sussulti, e chi in un certo senso può essere ritenuto responsabile, in altre parole gli sconfitti, deve stare bene attento, perché potrebbe essere presto ritenuto responsabile anche di cose molto più gravi, ovvero di violenze, di sangue, di repressione, di morti ed eventualmente anche di una riduzione di quel processo democratico che Khamenei ha difeso così a spada tratta. Punto a capo. Esce ieri sul Independent un articolo con una firma piuttosto prestigiosa come quella di Robert Fisk, che parla di una lettera segreta che proverebbe una vittoria di Mousavi alle urne iraniane, quindi con dei numeri peraltro clamorosi, un articolo piuttosto destabilizzante, diciamo così, seguito anche oggi da un secondo articolo di Fisk, sempre sulla stessa testata britannica, in cui invece il broglio è la realtà e tutto quello a cui stiamo assistendo di conseguenza è un gran teatro. Noi abbiamo in linea in questo venerdì, che minacciava di essere il giorno più drammatico, che per fortuna almeno fino ad ora sta passando, sta consumando le sue ore senza notizie gravi, rosse in arrivo dall'Iran. Abbiamo in diretta Maria Grazia Enardu, abituale voce qui ormai a Jefferson, ricercatrice di storia internazionale all'Università di Firenze, ha seguito i fatti dell'Iran degli ultimi giorni, ci ha peraltro segnalato lei in prima persona l'articolo dell'Independent, e con lei vogliamo parlare sia di questo articolo che magari dei giorni invece che ci aspettano a venire. Buon pomeriggio, Maria Grazia. Buon pomeriggio. Ci inquadri dunque dal tuo punto di vista, per come hai seguito anche con maggiore completezza quanto abbiamo fatto noi gli eventi, che cos'è questo articolo su una testata peraltro di qualità e di grande attendibilità come l'Independent, dove insomma si dà un bello scossone, no, allo scenario? Sicuramente lo scoop di Fisk, se fosse vero, sarebbe assolutamente risolutivo in termini di democrazia, non lo sarebbe in termini politici. Qualunque cosa sia accaduta a Teheran, è indubbio che gran parte del paese, la parte più effervescente, più dinamica, più attiva, non si riconosce in questi risultati. Anche se Ahmadinejad avesse avuto numeri migliori a Teheran e nelle altre città, non solo a Teheran, questo non viene accettato. La guida suprema oggi ha fatto un'operazione che doveva assolutamente fare, che lui non può smentire qualcosa di cui si dice lui fosse d'accordo, cioè lui sta cercando di costruire una diga intorno a questo grande movimento popolare, peraltro molto pacifico e, come raccontano i corrispondenti, anche molto tranquillo e silenzioso. Si vuole, è una sorta di maggioranza silenziosa che però vuol farsi vedere e che si è data anche degli appuntamenti. la celebrazione, la commemorazione del ricordo dei morti, per cui probabilmente cercheranno di rimanere in piazza per circa 40 giorni. Ecco, ma tu ritieni che l'Iran di oggi, dell'inizio dell'estate 2009, sia una nazione sufficientemente solida dal punto di vista dei principi democratici da sopportare la presenza di una parte, di un'opposizione, di una minoranza sconfitta così visibile, come dici tu, anche così decentemente organizzata, addirittura così capace di descriversi, no? Di rappresentarsi al mondo, facendolo naturalmente sussultare sia da un punto di vista sentimentale che da un punto di vista della passione politica, al tempo stesso restando però lo stesso Iran di cui abbiamo a lungo sentito parlare negli ultimi anni, negli anni di Ahmadinejad, quindi l'Iran del pugno sul tavolo, delle minacce a Israele tutt'altro che velate, del negazionismo, del nucleare, non si sa bene per che cosa. Possono convivere questi due spiriti, queste due anime, secondo te? Anche tre, perché oltre ai ragazzi che ci sono in strada e nelle piazze, non dobbiamo dimenticare che il presidente Ahmadinejad è un radicale che per complicati equilibri interni è stato sostenuto dai conservatori. Quindi quello che c'è a Teheran oggi è una sorta di mix molto instabile, e infatti si sa che il clero sciita è profondamente spaccato. Inoltre, paradossalmente, questo paese è così vivace, così presente nelle piazze a rivendicare il suo diritto, è il paese che gli stessi Ayatollah hanno creato, perché non va dimenticato che è appunto una generazione di gente molto istruita, molto presente e molto attiva, perché queste sono state scelte, anche volute e incoraggiate da questi stessi Ayatollah che noi consideriamo di solito in chiave negativa. Esce una agenzia che dice che secondo molti osservatori iraniani e arabi il messaggio inviato al leader riformista Mousavi dalla suprema guida della rivoluzione, l'Ayatollah Khamenei, sarebbe obbedisci oppure sei fuori dal sistema, al che tornerei alla parola con cui ho aperto il programma, normalizzazione, no? Rimettiamo in ordine lo scenario, riacquisiamo una, come dire, una rappresentazione coerente dell'Iran d'inizio XXI secolo, nel quale faticano a entrare, no, questi grandi sommovimenti interni. Cosa dici? Sì, però è una partita che non solo si gioca appunto nei prossimi mesi, ma per male che vada si rigioca pari pari tra 4 anni, perché è impossibile fermare questo nuovo Iran, per cui o subito o alla prossima tornata elettorale questo paese cambierà profondamente. Tu sostieni che l'Iran contiene in se stesso la cura, come direbbe Battiato. Sì, sì, perché io la vedo come una marea demografica che deve cambiare, perché è diversa dalla generazione precedente, ed è una marea crescente perché ha gli strumenti, non soltanto l'essere giovani, ma hanno la cultura, hanno i mezzi di comunicazione. Gli Ayatollah sono o si reinventano, hanno avuto sempre una grande capacità di reinvenzione, o si adattano. Certo, certo. Per concludere, sono certo che i nostri ascoltatori vorranno sapere qualcosa di più su questo articolo di Fisk. Mi aiuti a riassumere in due parole che cosa ipotizza, che cosa racconta Independent in relazione ai risultati elettorali? Che appunto i veri risultati vedrebbero come vincitori, quindi destinati al ballottaggio, i due elementi considerati riformisti, cioè Mousavi e Karoubi, con il povero Ahmadinejad terzo e certo. Ultimo, e quindi tagliato fuori anche dal ballottaggio. Questo spiega probabilmente la grande spaventata reazione di parte del clero e soprattutto del leader supremo, perché non erano pronti neanche a perdere il ballottaggio. Quindi neanche un broglio, vogliamo dire un'ipotesi di messa in scena vera e propria in un certo senso. Sì, no? Anche perché pare che circolassero parecchi sondaggi da tempo, considerati anche abbastanza attendibili, che davano uno scenario del genere, e questo spiegherebbe anche la capacità di preparazione del broglio, certo. Perché non è possibile che a 2 ore scarse dalla chiusura dei seggi si sapessero tutte le percentuali in tutto il paese, quindi si erano preparati, e si pensa e si sa che appunto le ultime settimane fossero state dedicate freneticamente a questo da parte del presidente Ahmadinejad e di un gruppo abbastanza devoto, si calcola che il 20% del paese in qualche modo lo sostiene, disposto letteralmente a tutto. Va bene, molte grazie a Maria Grazia Nardo per questo intervento di oggi. Io, per concludere la descrizione dell'attuale situazione, vi dico che Khamenei nel suo discorso ha messo in guardia i sostenitori dei candidati perdenti a proseguire nelle manifestazioni. Tra l'altro nell'articolo di Fisk si fa anche un numero di vittime diverso da quello noto ormai e condiviso dal resto dell'informazione. Si parla di 7 morti, qui invece si parla di 15 vittime a margine delle proteste. E i dirigenti politici che hanno una influenza sul popolo dovrebbero fare molta attenzione, queste le parole di Khamenei, al loro comportamento. Se agiscono in maniera estremista, questo estremismo raggiungerà un punto di non ritorno e saranno responsabili per il sangue, la violenza, il caos. Diciamo che la situazione, sotto un velo di apparente calma, sta raggiungendo, no, la tensione di una corda di violino. Ci vogliono ancora dei giorni per vedere poi come si scaricherà questa grande tensione che si va accumulando. I heard you on the wireless back in 52. I am awaking ten tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Took the credit for your second symphony, rewritten by machine and new technology. And now I understand the problems you can see. I met your children, what did you tell them? Non so voi, io ero contrario a mettere questo disco, però anche qui la democrazia ormai ci ha preso la mano. Come dire, se Trevor Horn avesse scritto questa versione di Video Kill the Radio Star, non sarebbe diventato Trevor Horn, e Video Kill the Radio Star non sarebbe diventato Video Kill the Radio Star. Un po' loffie, no? Del resto Jessica Brando si chiama, chi è Jessica? Quindi diamo merito al nostro tecnico in regia. Diamo colpa al nostro tecnico in regia, che comunque ha giustamente voce in capitolo notizie dal mondo, prima poi di un approfondimento oggi con un paio di ospiti di grande interesse, che pensiamo insomma sia abbastanza stimolante oltre che piuttosto nuovo. 360 gradi news dai punti sensibili del pianeta. E ripartiamo dal punto sensibile, PS maiuscolo in questo caso, della settimana di scenario internazionale, ovvero dall'Iran, perché proprio quanto stavamo dicendo con Maria Grazia Nardu poco fa trova ora conferma da notizie che arrivano da Londra riguardo al numero di vittime causate dalle manifestazioni che hanno seguito la conferma di Ahmadinejad alla presidenza dell'Iran. Sarebbero davvero 15, sembra, le persone uccise durante le manifestazioni. Lo sostiene dalla sede di Londra Amnesty International, mentre sono 7 i morti confermati dalla radio ufficiale iraniana. Amnesty registrerebbe 15 uccisi, di cui 5 studenti, la cui morte deve essere ancora confermata, dice il comunicato di Amnesty, che quindi va anche preso un po' con le molle. Secondo la radio ufficiale, Radio Pajam, 7 civili sono stati uccisi da colpi di arma da fuoco lo scorso lunedì a margine delle manifestazioni, scrive l'agenzia, con centinaia di milioni, facciamo centinaia di migliaia di persone, che forse è meglio. Comunque, insomma, il dato potrebbe aggravarsi. Io invece, Stefano, parlo di telefoni rossi, nulla di piccante, anche se le cronache italiane di questi giorni potrebbero suggerire. Parlo invece di una linea calda e direttissima che sta per essere installata tra Pechino e Nuova Delhi, tra quelle dei film, ce n'è già una in funzione e chissà poi se è utilizzata di frequente tra Pechino e Washington, quindi tra Jintao non ci credo più e Obama. Cosa, il telefonone rosso, praticamente i giornali indiani annunciano che stanno preparando nel giro di un mese, e mi chiedo perché ci voglia un mese per allestire una linea, tirare il filo, perché così. Se c'è il telefono c'è anche il filo, allora più che altro non deve dare spazio ad intrusi e a intercettazioni varie, questa quindi linea, il filo con tutti i soldati ogni 10 metri, lungo e sorvegliato, insomma, tra India e Cina pare che Singh, il premier indiano, e Jintao abbiano voglia, insomma, di sentirsi più spesso, soprattutto per evitare che arrivino situazioni di crisi da non poter gestire di comune accordo. BlackBerry pure loro. Ma evidentemente il BlackBerry può finire sotto occhi indiscreti, chi lo sa. Come meglio Obama, la linea rossa, come Obama, il telefono rosso. Ci ha lungamente insegnato. Forse non avrete letto sui nostri giornali, perché è uscito un po' a margine questa storia. In America invece sono impazziti per tutta la settimana per la vicenda di Steven Dunman. Chi è Steven Dunman? Ma non si sa. Steven Dunman era un bambino di un paio d'anni che 54 anni fa è scomparso. 54 anni dopo un signore che si chiama John Barnes è apparso, e vedere le foto del cuccioletto Steven e del 56enne, immagino, John Barnes, era impressionante, perché era inevitabilmente proprio da pensare che fossero la stessa persona. E lui diceva: sono io quello lì 54 anni fa scomparso. E poi raccontava lunghe storie a margine questa storia che è ambientata fra Long Island e il Michigan. Oggi però una grande smentita ha un po' fatto cadere, no, le speranze, anche questo era inevitabile, che andasse, gli hanno fatto il DNA, come era naturale che fosse, e si è capito che le due persone non sono la stessa persona. Questo John Barnes, con finalità tutte da appurare, ha mentito, si è inventato tutto. Io invece rapidamente voglio spendere chi l'ha visto una parola su... Beh, ho preso a cuore la situazione di 500.000 di addetti ai casinò russi. Parliamo di manager, croupier, guardie, inservienti, insomma, io ho a cuore i casinò, lo dico così. Pare, insomma, che stiano per finire sul telefoni rossi, casinò. Cosa viene qui a... Faccio altro oltre la radio. No, diciamo che c'è una legge che dovrebbe entrare in vigore dal 1 luglio, quindi siamo veramente nell'imminenza di questa scadenza, che chiuderà tantissimi casinò sparsi per la Russia, verranno concentrati soltanto in 4 aree, e quindi pare che 500.000 di addetti del settore finiranno a spasso. E quindi Mosca, in particolare, che sarà la città più colpita da questa iniziativa voluta fortemente da Putin nel 2006, si sta un po' agitando, e quindi c'è preoccupazione per il destino di tanti lavoratori. Il partito dei croupier russi. Do me wrong, do me right, tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. Sure, it's good to see you, but but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight. Go away, then damn you. Go on and do as you please, yeah. You ain't gonna see me getting down on my knees. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Do me wrong. Do me right. Do right now, me baby. Right. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light. Morning light. But don't let me be lonely tonight. I don't want to. Dunque, un paio di giorni fa ci è caduto l'occhio su una notizia che è apparsa inizialmente, almeno per quelle che sono state le nostre esplorazioni, sui siti news della BBC, dove si parlava di qualche cosa che così a prima vista risultava assai insolito, inatteso, diciamo così, ovvero un episodio con tutta una serie poi di scadenze, una piccola agenda all'interno di grave intolleranza, che è andato in scena a Belfast, nella civile Irlanda del Nord, ormai sedata nelle sue inquietudini principali, quelle che ben conosciamo e che hanno attraversato buona parte del secondo Novecento. Un episodio di intolleranza che si rivolgeva nei confronti di una locale comunità di nuovi arrivati, di nuovi insediati, ovvero dei rumeni, circa 120 rumeni che a un certo punto, un paio di dozzine di nuclei familiari che a un certo punto sono stati letteralmente tolti dalle loro case, che venivano sottoposte a multipli, a ripetuti attacci a sfondo razziale, scusate, sono stati trasferiti poi in un centro di raccolta, un centro sociale, dove erano coperti, assistiti sia tra l'altro da personalità religiose che da addetti alla sicurezza. C'è stato anche un intervento di Gordon Brown al riguardo, che si è detto preoccupato e stupito di un episodio di questo genere nella civile Irlanda, dove evidentemente una comunità con la quale anche in Italia a più riprese abbiamo imparato a fare i conti a livello di cronaca, ma anche a livello di psicologia collettiva, il rapporto non si sta sviluppando nella direzione giusta. Ieri sul Corriere della Sera, peraltro, è uscita una lunga intervista a firma di Fabio Cavalera con Roddy Doyle, invece a sua volta dublinese, no? Quindi di un altro punto dell'isola irlandese, ma sensibile agli umori e alla temperatura psicologica della sua terra, e non a caso autore di un libro, di una raccolta di racconti, dove proprio di questi stessi argomenti si parla, ovvero si parla di razzismo, di un razzismo strano, strisciante, nuovo, ancora non perfettamente identificato, un razzismo del io non sono razzista, ma svelando nel civile Regno Unito evidentemente delle componenti nuove. E allora noi vogliamo parlarne ora con Fabio, che è in linea con noi, e poi continuare il discorso anche con un altro intellettuale italiano che si sta occupando invece negli scenari nostrani, in questo caso del nord-est, di storie che hanno certamente una risonanza con tutto questo. Ma prima di tutto voglio salutare Fabio Cavalera. Buon pomeriggio Fabio, e grazie per essere con noi. Grazie a voi. Allora, addirittura Gordon Brown si è mosso su questa storia, per quanto sembrerebbe così un episodio di ragazzacci, teppisti, però c'è forse qualcosa di più, o forse c'è addirittura una reale inquietudine e un caso lampante di non integrazione. Cosa pensi? Penso che sia un episodio che nasconda un sentimento ahimè, che si va diffondendo, e cioè le frange estreme che ricorrono a violenze di questo tipo sono estremamente piccole, però di sotto vi è un sentimento di disagio condiviso da moltissimi cittadini, e soprattutto fuori Londra, soprattutto nelle zone dove la disoccupazione sta diventando un problema grave. C'è qualcosa di, come dire, di personalizzato, di dedicato a questa comunità rumena che sta assumendo anche nel Regno Unito forse dei tratti di particolare, no, potenzialità di pericolo, di minaccia, come a più riprese in vaste aree d'Italia è accaduto anche mediaticamente? Ma certamente vi è un aumento sensibile dei crimini, dei reati che risultano commessi, piccoli crimini che risultano commessi da persone che arrivano appunto dalla Romania o, certo, dai paesi. E poi comunque vi è una, come dicevo prima, una sensibilità sul problema del lavoro, perché in tutto il Regno Unito tutti coloro che arrivano dai paesi dell'Europa dell'Est vengono visti come dei potenziali concorrenti e, certo, persone che possono rubare il lavoro, ecco. Ecco, nella tua chiacchierata con Roddy Doyle, che è un importante, ascoltato, rispettato intellettuale di Irlanda, che sensazione hai tratto? C'è una preoccupazione? Certo, c'è una Roddy Doyle è un intellettuale importante, coglie un qualcosa che esiste proprio nella società, cioè coglie questa paura, la paura di un qualcosa che non si conosce bene, di un pericolo che non si è messo a fuoco e che non si sa come fronteggiare. Per cui anche le persone così politicamente corrette alla fine si ritrovano di fronte a casi della vita in cui scoprono di avere un qualche sentimento, se non razzista, quasi razzista. Una sorpresa dentro noi stessi. Abbiamo in diretta anche Gianfranco Bettin, consigliere regionale dei Verdi in Veneto, ma anche scrittore intellettuale, lavora per giornali, ma scrive anche dei libri dedicati con particolare interesse alla sua terra, e ne ha scritto, appena uscito in questi giorni, uno molto interessante che io sto leggendo con grandissimo interesse. Si chiama Gorgo in fondo alla paura, il sottotitolo è Indagine narrativa su un delitto nel profondo nord, riguarda il fatto di sangue avvenuto il 20 agosto 2007 nella Marca trevigiana, due anziani coniugi massacrati da una improvvisata banda di rapinatori rumeni, e poi tutto ciò, quello che gli americani chiamano l'aftershock, tutto l'effetto collaterale che è seguito socialmente, psicologicamente nella comunità locale allargata fino a estendersi a tutto il nord-est e più in genere anche al piano nazionale. Buon pomeriggio Gianfranco. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, complimenti per questo tuo lavoro, ma affianco a questo, nelle parole che hai sentito pronunciare da Cavalera, provenienti, no, da osservazioni su una Irlanda che scopre appunto di avere dentro di sé una inattesa intolleranza, diciamo così, c'è qualcosa che si riconnette poi con quello scenario successivo al tremendo delitto che racconti nel tuo libro e che diventa una questione sociale vera e propria? Ho colto, se devo dire la verità, più le differenze in questo momento, perché dalle parole di adesso di Cavalera, ma anche dalla bella intervista con Doyle di ieri sul Corriere, mi sembrava di capire, anche da altri spunti usciti sui media negli ultimi tempi, che il problema in Irlanda sia il timore della concorrenza, diciamo così, il perdere il lavoro in favore di lavoratori stranieri, immigrati, che vengono pagati meno, insomma la famosa sindrome dell'idraulico polacco, certo, si è chiamata così in Germania e in altri posti dell'Europa centrale, mentre dalle nostre parti è ancora un problema legato più alla dalla paura fisica, dal timore che vengano commessi reati contro il patrimonio o contro la persona provocati da questo tipo di persone, insomma di immigrati che delinquono o che si arrangiano, diciamo così, per vivere, e quindi anche si teme che possano insidiare la sicurezza e appunto il patrimonio o la persona. Anche se i primi morsi della crisi in questi mesi stanno suscitando anche quel tipo di paura là, però mi sembrava, almeno dalle cronache, più accentuata nel caso irlandese quella paura lì, più che quella sociale, diciamo, più che individuale, fisica. Quindi quello del nord-est somiglierebbe più a uno scenario americano, che sente che sta perdendo qualche cosa per l'arrivo di una minaccia i cui lineamenti sono tutt'altro che chiari, definiti, che definiti. Esatto, in questo probabilmente questo sentimento è accentuato dagli effetti un po' di spaesamento che il modo di prodursi locale di fenomeni globali, insomma l'internazionalizzazione, il mercato del lavoro che si apre come i commerci alla dimensione internazionale, che provocati in loco che spiazzano le persone, cambiano anche i connotati del paesaggio, la famiglia muta, certo, le relazioni, certo, sociali cedono, e questo ogni volta che si producono episodi tipo quello appunto che ho raccontato nella vicenda di Gorgo e Monticano esasperano estremamente, insomma, il sentimento di paura che si collega a un'insicurezza più generale, ma che parte da episodi specifici. Mi sembra che altrove, come anche nell'Irlanda, magari non mancano questi episodi, ma l'elemento scatenante sia invece la paura della concorrenza sociale, certo, insomma, sul lavoro. Va bene, continuiamo a parlare subito dopo le notizie dal traffico. Vi ricordo che il libro di Bettina, edito da Feltrinelli, si chiama Gorgo, in fondo alla paura. Ringrazio i pazienti Fabio Cavalera e Gianfranco Bettin, che sono ancora in collegamento con noi. Stiamo parlando di questa strana, no? Questo strano caso a due binari, un caso di intolleranza nei confronti della comunità rumena che sta andando in scena in questi giorni a Belfast, e un libro di Gianfranco Bettin che si chiama Gorgo, in fondo alla paura, che racconta di un delitto perpetrato da un gruppo, da una banda di rumeni nel nord-est, nella Marca Trevigiana, a cui poi è seguita una situazione quasi epidemica di intolleranza nei confronti appunto dei rumeni che abitano quelle terre. Cavalera, sei d'accordo in questa distinzione che Bettina ha tracciato, una sensazione di pericolo che è la motivazione dello scenario italiano, invece una sensazione di concorrenza, possibilità di perdita, di sicurezza che appartiene più alla sfera anglosassone della questione? Assolutamente sì, il vero problema nel Regno Unito e poi anche in Irlanda è proprio quello della concorrenza sociale. Gli ultimi dati rivelano che vi è un aumento della disoccupazione britannica e un aumento della occupazione dei lavoratori che provengono dai paesi dell'Europa orientale. È proprio uno studio di qualche settimana fa rileva questo squilibrio, e quindi è chiaro che ciò si risolve in un sentimento proprio di paura di perdita del posto di lavoro, e quindi questo determina delle reazioni a livello emotivo privato di tipo quasi razzistico, che poi hanno delle manifestazioni di tipo violento da parte di frange che sguazzano in questo clima, in questa situazione. Bettin, nella seconda parte del tuo libro viene fuori una definizione che colpisce, che impressiona, si parla di Veneto barbaro, no? un Veneto dove la legge della giungla, la giustizia fatta da soli viene non solo invocata, ma a un certo punto raggiunge una legittimazione politica, perché è successo qualcosa del genere, puoi testimoniare? Dunque, la definizione di Veneto barbaro non ha tanto a che fare con questi episodi che pure purtroppo non sono mancati, è una definizione tra il poetico e come dire l'evocativo, il suggestivo, certo. Che viene da Parise, che parla di una forza profonda che dalle viscere di questa regione produce un atteggiamento aggressivo, ma più che altro verso il lavoro, verso la vita, verso una natura da trasformare, facendone un elemento produttivo molto forte, insomma, e questo è un modo di raccontare il Veneto parlando delle sue più profonde radici e anche pulsioni, che c'entra poco però con l'aggressività di cui stiamo parlando, in un certo modo anzi la contraddice, però quella di cui stiamo parlando è certamente una forma, se vogliamo chiamarla barbara, va benissimo, nel senso che è una forma di aggressività verso chi viene vissuto come un elemento pericoloso, nei termini che dicevo prima, certo. Che a volte dà anche adito da motivo per manifestazioni veramente pesanti, insomma, di intolleranza. Devo dire però che in quella occasione specifica noi abbiamo visto sia questa faccia, sia una faccia che pur preoccupata dal pericolo che un episodio del genere metteva nei cuori di tanti, insomma, una reazione che ha cercato anche di trovare un equilibrio nuovo, di certo. Registrare la dimensione di pericolo, di paura, ma di evitare le degenerazioni. E in questo anche amministratori che appartengono alla Lega localmente hanno avuto un ruolo, ripeto, equilibrante. Questa banda composta un po' di mista romeno-albanese, cioè il massimo, no, del certo. Nell'immaginario corrente dello spaventevole, certo, certo. Esatto, è stata per fortuna sgominata subito da una tempestiva azione di magistratura, carabinieri e polizia, ma anche poi localmente ricondotta alla sua dimensione specifica criminale, tanto è vero che molti degli immigrati che io ho incontrato facendo questa ricerca hanno raccontato che hanno avvertito sul momento forme di diffidenza, ma alla fine non hanno trovato ancora quell'aggressività di cui stiamo parlando in forma indiscriminata e generalizzata, ed è un elemento su cui lavorare per evitare che questo percorso vada oltre. Io ringrazio Gianfranco Bettin, ringrazio anche Fabio Cavalera, vi ricordo il titolo del libro di Bettin, Gorgo in fondo alla paura, Feltrinelli. Chiudo in fretta perché siamo in ritardo e non mi posso dedicare a queste mail e messaggini che ci criticano la colonna musicale da oggi. Ci dice Massimo: ma voi tre uomini adesso vi state baciando con questa musica inevitabile. Massimo, poi ne parliamo. Finisce Jefferson 2, l'arte della svolta questa settimana. Stefano Pistolini, in redazione Milano Enrico, in regia a Roma Alessandro Chiappini, a Milano Pietro La Corte. Ci sentiamo dopo le 4 lunedì, buon weekend a tutti.